brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Risparmio la mia immagine che oggi ho messo su Facebook, scusate se faccio questa apertura limitata soltanto a una parte ristretta del mio pubblico, ma è importante che chi ha possibilità vada a vedere, perché è quanto mai simbolica e significativa della trasmissione di oggi. Piede sinistro, una comune credenza dovuta alla diffusa contrapposizione sinistra-destra alla quale corrisponde quella male-bene, vuole che porti sfortuna scendere dal letto con il piede sinistro. Questa mattina avete riflettuto sul piede che avete poggiato per terra per primo? Io ci penso qualche volta. Voi direte, ma sei scemo ancora, sei legato a queste cose. Ma quell'attimo fatale, quell'istante in cui uno passa da una dimensione piacevole, perlomeno da una dimensione sollevata da ogni impegno materiale, o perlomeno si solleva nei rarissimi casi in cui accade, da impegni materiali piacevolissimi, sta per appoggiare un piede per terra, quindi riprende contatto con la dimensione terrena. E quale piede mette giù per terra per primo? Io ho sempre scelto nel talamo coniugale stare dalla parte destra, così per me era più facile mettere per terra il piede destro. Mia moglie scende sempre col piede sinistro, peggio per lei. Voi direte, ancora sei legato a queste credenze così arcaiche, così lontane, così irrazionali, ma tu sei un uomo moderno. Beh sì, ho questo piccolo difetto. Bottone. Un bottone che si stacca di prima mattina o un capo di abbigliamento male abbottonato preannunciano una giornata cattiva. È opportuno non indossare un abito a cui manchino uno o più bottoni. In Francia vi sono regole precise su come si abbottonano gli abiti. Se i bottoni sono due, bisogna abbottonare solo quello più in alto. Se sono tre, solo quello centrale. È un bel problema, perché io ho sempre portato giacchette a tre bottoni, ma ultimamente le giacchette, quelle fighette, sono a due bottoni, come andavano una volta le giacchette dei burini. I due bottoni io normalmente non li attacco, non li chiudo nessuno, ma se dovessi scegliere quali due bottoni devo attaccare, la regola vuole che attacchi soltanto il bottone superiore. Ma questo potrebbe incorrere nei rigori di una delle più terrificanti maniere di sfiga. Voi direte, ma se ancora pensi che queste cose possano avere un senso reale, tu pensi che alcune nefaste influenze possano influire nella vicenda umana, ma come sei arretrato, come fai a parlare di modernità, come fai a parlare di nuove frontiere della scienza, come fai a parlare di nuove tecnologie? Beh, ahimè, posso convivere nell'una o altra situazione. Quadro. Secondo una diffusa credenza, un quadro che si stacchi improvvisamente da una parete annuncia un decesso in famiglia, che potrebbe essere prossimo se nella caduta si infrange il vetro. Nel caso in cui a cadere sia un ritratto o una fotografia, si crede che il soggetto raffigurato possa morire entro l'anno. Ieri sera feci una cenetta solitaria con alcune amiche. Una mi portò, perché era la prima volta che entrava a casa mia, un piccolo cadeau, perché si usa portare un regalo la prima volta che si va a casa di una persona. Si usa portare il pane, il sale, queste cose simboliche. Non avendo altro, mi portò una caramella rossana e una cornice vuota. Questa cornice vuota ho immediatamente percepito quanto potesse essere veramente un dono Fausto, perché non aveva un vetro e quindi dentro quella cornice posso mettere qualunque parte, qualunque porzione del mio universo, semplicemente spostandola, e non avrò mai il timore terrificante del quadro che si stacca da solo, che cade per terra, che si rompe, che si infrange. Accade nelle case moderne, soprattutto nelle case moderne ristrutturate, perché le ristrutturazioni in realtà pongono uno strato di calcina o di intonaco fittizio rispetto a quella che la vecchia antica muratura delle case che hanno una datazione, e quindi noi, incapaci di mettere degli stop sufficientemente tenaci in quel muro, mettiamo un chiodino facendoci turlupinare dal venditore di cornici, quadri, chiodini, che altro non vuole che si schianti il quadro, perché poi andiamo da lui a rimettere la cornice. Quindi mettiamo questo fallace chiodino al muro e il quadro prima o poi fatalmente cadrà. Ma quando cade? In che situazione cade? E cosa significa quella caduta? Beh, avete capito l'argomento di questa mattina? Sono le nostre debolezze riguardo la mala sorte, riguardo il fato avverso, riguardo la sfiga nera. 800240024. Fate una profonda e coraggiosa confessione. Bucato. Secondo alcune credenze, è preferibile evitare di farlo il lunedì e il venerdì per non incorrere nella mala sorte. E non stendere i panni dopo il tramonto, operazione che indurrebbe al sonnambulismo o, nel peggiore dei casi, alla morte. Durante le feste religiose, così come durante la notte di Capodanno, si raccomanda di non fare mai il bucato. Si laverebbe via l'anima di qualche abitante della casa o di chi lo fa. Ecco, io ricordo che questa mattina sono uscito di casa nel terrazzino piccolo, unico, esiguo terrazzino, semplice rappresentazione simbolica, velleità in esprezza del terrazzismo romano, che è il vero simbolo del potere. La donna aveva lasciato i panni stesi da ieri sera, quindi la stesi nella serata di ieri, quindi già era tramontato, quindi i miei calzini, le mie mutande e le povere cose che ornano la mia figura sono lì stese come sorta di minaccia perenne alla mia integrità. Veramente ho bisogno di qualcuno che mi conforti in questa mia debolezza comprensibile umana. Professor Marino Niola, buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Niola è un antropologo, insegna antropologia dei simboli all'Università di Studi Suor Orsola Benincasa Napoli, autore assieme a Elisabetta Moro di un libro che tengo tra le mie mani con circospezione perché c'è un gatto nero sulla copertina. È il libro delle superstizioni, con i rimedi popolari e le difese tradizionali dal malocchio, dalle fatture, da numerosi altri malefici. Edizione Ancora del Mediterraneo. Lei affronterà questo problema da un punto di vista antropologico, senza averne naturalmente un passionale trasporto, immagino, professore? No, perché appunto come antropologo noi studiamo quello che le persone credono, anche se qualche volta si finisce per credere a quello che si studia, però l'approccio degli antropologi a questi fenomeni è un approccio appunto di una certa distanza che non esclude il rispetto. Esclude il rispetto e non esclude che qualche volta anche noi ci posizioniamo in quella terra di mezzo che sta fra il credere e il non credere, quello appunto Benedetto Croce diceva: non è vero, ma ci credo. Ecco, in questo libro, oltre le classiche e tradizionali icone della sfiga perenne, ce ne sono certe inespresse, che non conosciamo o che sono oggetto di nostri rituali stereotipi quotidiani, ma non lo sapevamo. Ad esempio, la bottiglia di cui parleremo tra un po', dell'acqua lasciata davanti alla porta, che io pensavo che fosse una sorta di innaffiatoio, attesa di innaffiatoio per tempi di siccità, ha un significato ben preciso. Bottiglia. Una recente credenza vuole che una bottiglia d'acqua posta davanti ai cancelli o alle porte serva a tenere lontani cani e gatti, evitando che questi urinino nei pressi. Invece, professor Marino Niola, la bottiglia lasciata di fronte alla porta di casa, ma si vedono anche nelle città, anche nel mio quartiere ogni tanto si vedono queste bottiglie appoggiate, anche nei condomini molte volte. Ha un significato ben diverso e dove affonda le sue radici? Beh, l'idea che bisognasse lasciare una volta lungo le strade acqua, qualche volta perfino cibo, serviva proprio a saziare, a placare la sete degli spiriti, casomai anche di quelli domestici del luogo che tornavano sui luoghi dove avevano vissuto, e in certi giorni dell'anno addirittura insieme all'acqua si metteva del cibo. Poi adesso invece è nata questa idea che è rovesciata, che addirittura l'acqua servirebbe a tenere lontani gli animali, soprattutto certe deiezioni meno desiderate degli animali, e lì funziona una sorta di magia omeopatica, quasi che liquido scacci liquido, il simile che scaccia il simile. Questo dimostra che i simboli, molto spesso i simboli cosiddetti superstiziosi, nel tempo restano gli stessi, ma il loro significato cambia completamente, a riprova di quello che diceva lei un attimo fa, cioè che niente come la sfiga si rinnova. Possiamo dire che le vie della sfiga sono infinite. Ecco, noi ancora attribuiamo comunque il potere di portare male o di incidere negativamente la nostra giornata ad alcune persone. È terrificante quando viene lasciato il pesantissimo anatema di porta sfiga a una persona in ambienti di lavoro, in ambiente dello spettacolo, potremmo fare un elenco infinito di persone, significa ucciderlo civilmente, anche nella nostra razionale e civilizzatissima concezione dell'essere umano. Quali sono le forme moderne per mediare, per giustificare questo senso profondo e irrazionale nei confronti della mala sorte? Beh, ci sono intanto le forme moderne sono i media sono diventati un demoltiplicatore e un trasmettitore di voci, tant'è vero che oggi molto spesso è proprio il gossip amplificato dai media che poi crea intorno a certe persone quell'aura sinistra, quella fama sinistra che spesso è distruttiva, ha distrutto la vita di certe persone. Potremmo far nomi, uno per tutti, quello della cantante Mia Martini, sì, certo. Ma ce ne sono anche altri nel mondo dello spettacolo, come lei ricordava, è pieno, ci sono casi di grandi attori di formazione, di grande formazione, anche eduardiana, che hanno avuto la vita lavorativa e anche la vita in generale proprio distrutta, segnata da questa fama sinistra. Anche nell'ambiente dei giornalisti ce ne sono certi segnati, di cui tutti sanno l'aspetto di facezza, di maldicenza o di invidia magari per successi professionali, ma tutti comunque hanno degli episodi concreti da raccontare. Sì, è vero, è una stupidaggine, però sai, una volta è passato e ha detto qui c'è troppa luce, è caduto il lampadario, un'altra volta è passato e ha detto tu hai una bella cera e quello è morto di tumore e via dicendo. Poi si autoalimentano queste voci. È il caso di un famosissimo studioso che era circondato da una fama leggendaria di questo tipo, di cui si diceva che una volta andassero a prenderlo in macchina, al treno, in occasione di una conferenza, e lui disse l'autista non vada forte perché facilmente si va fuori strada, e la macchina andò immediatamente fuori strada, e così via. Potremmo continuare all'infinito. Ecco, io le leggo qualche messaggio arrivato su Facebook, e anche qui stiamo parlando della forma più moderna e razionale di comunicazione, che addirittura esclude la corporeità, che quintessenzia il messaggio in alcune righe scritte al computer mentre uno sta lavorando, eppure guardi quanto emerge di antico e di arcaico da questi messaggi. Anna Maria dice: una signora mi ha detto che nel mese di maggio non toglie le ragnatele di casa perché porta male. Vanessa: mai pensato al piede con cui scendo dal letto, ma creduto a queste cose mi sembrava una perdita di tempo a fare attenzione a queste cose. Questa è una scettica. Se regali una spilla, dice Salva, chi la riceve deve restituirti una moneta a titolo di pagamento, anche un coltellino, qualunque cosa appuntita, bisogna dare comunque un soldino in cambio, se no porta male. Barbara: non riesco a passare sotto le scale, a passare il sale senza appoggiarlo, eredità di famiglia. Poi andiamo avanti. Sto sempre dalla parte opposta della porta e via. Poi un'altra: Assunta, un'altra persona dice: questa mattina mi hanno clonato la carta di credito, quindi mi sembra la giornata giusta per parlare di sfiga. Mauro, che abbiamo al telefono. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, cercherò di raccontare velocemente due aneddoti. Primo è, mi trovavo in macchina con la famiglia, mi ha sorpassato, ho visto, ero rallentato, mi ha sorpassato la macchina dietro, dopodiché ho lasciato la famiglia ai piedi del palazzo, che è salita con l'ascensore. Appena ho parcheggiato sono salita anch'io, trovando incastrato dentro l'ascensore quattro persone. Queste quattro persone erano le quattro persone che erano nella macchina che mi ha sorpassato. Vabbè, altro aneddoto. E qua dove sta il senso di sfiga? Perché l'hanno sorpassato, la porta sfiga? Ah, c'era un gatto davanti, e non dice sì, la parte più importante. Allora, c'era un gatto nero sulla strada, lei ha rallentato e ha fatto passare un altro. La macchina dietro, esatto, e i signori li ho trovati incastrati nell'ascensore. Hanno salito regolarmente e loro sono rimasti incastrati. Ma lei ha detto, così imparate un'altra volta a passare davanti al gatto? Sì, gliel'ho detto. E loro hanno detto, non ci crediamo, sono tutte facezze. L'abbiamo messa a ridere perché poi eravamo tutti a cena insieme e non lo sapevamo nemmeno. Altro episodio, sì. In classe, prove di germinazione, un ragazzo che aveva la fama di portare male, 100 semi seminati da uno e sono nati 99, seminati da questo ragazzo non sono nati, messi forzati con la temperatura, 100% di germinazione per l'altro, e questo ragazzo ne sono nati 3 o 4. Cioè la cosa è una scuola agraria, una cosa del genere? Esatto. Quindi questo era sterile ogni suo tentativo di inseminazione. Bravissimo ragazzo, preparatissimo a scuola, tra l'altro eccezionale. Cioè quando passava lui si seccavano le piante? Sì, quasi. E ci sono altri episodi legati a questo personaggio? Sì, purtroppo sì, ce n'è uno terribile, il professore ha fatto gli auguri al professore e è morto di tumore qualche mese dopo. Beh, solo questi due episodi non bastano a determinare comunque... Ci sarebbero tantissimi, a parte... Beh, ne accendi un altro, così ci fa un quadro completo, permette all'antropologo di ritrovare i segni e perenni di questo suo atteggiamento. No, ora non me li ricordo sinceramente, perché si parla di 25 anni fa, quindi... Ma lei non teme adesso di averlo evocato e nominato che possa accaderle qualcosa? Ma assolutamente no. Vabbè, perché immagino... È un ragazzo che stimavo tantissimo, perché lo ritenevo eccezionale. Soprattutto perché sta usando il telefono con il viva voce. La saluto, buongiorno. Francesca. Ciao. Andiamo. Dunque, con coraggio. Sì, scusami se non parlo ancora bene, ma è un fatto che mi è capitato da poco, c'ho la bocca ancora un po' storta. Dunque, che hai avuto un infarto? No, ho avuto un'emiparesi dovuta a un'ischemia. Ma non, la sfiga non c'entra in questo? Sì, io ritengo, sono sfigata all'ennesima potenza, perché me ne capitano sempre. Ma chi te l'ha tirata per farti parlare con la bocca storta addirittura, che mi sembra un bel anatema? È successo che giovedì 12 novembre, mi fa, sì. Ero al bingo a fare una partita con le mie amiche. Ho detto: cacchio, domani è venerdì 13, che a me mi porta una sfiga. E vicino a me si è seduta una signora che c'è un'antipatia reciproca proprio, non so neanche perché si è seduta lì, quella dei PC. Beh. E poi quella ha mancato un bingo col numero 1. Sì. E la mattina del 13, venerdì 13, io mi sono svegliata, paralizzata. Ho dovuto chiamare l'ambulanza con mia figlia e mi sono trovata al pronto soccorso e dopo poco in una stanza nel letto numero 1. Ah, vedi c'è una corrispondenza numerica impressionante. Venerdì, sì. 13, il numero 1 evocato dalla terrificante signora portasfiga, la sua, sì. Da che parte è storta la bocca, destra o sinistra? Verso sinistra. E da che parte stava seduta la signora al tavolo dei cani? Vede, c'è un altro sintomo. Pensato. Vede, bisogna considerare. Si è bloccata tutta la parte sinistra, la certo, gamba, perché la signora era seduta a sinistra, se fosse seduta a destra, lei oggi parlava con la bocca storta a destra. Signora, ecco. In bocca al lupo, vedrà che troverà rimedio anche per questo. Professor Marino Niola, sì. Le abbiamo dato un esempio a tempo reale di quanto sia facilmente suggestionabile, poi una volta alimentato il filone del timore della sfiga, addirittura la signora crede che la sua emiparesi sinistra sia dovuta alla signora seduta a sinistra. Certo, perché probabilmente in questi casi ci troviamo di fronte a quello che si chiama la profezia autoavverante. Molto spesso, se noi crediamo in certi simboli, li mettiamo insieme e li facciamo significare, ma soprattutto finiamo per mettere in moto delle energie negative, che è qualcosa di simmetrico e opposto all'effetto placebo. Qui in questo caso si mette in moto un effetto displacebo che finisce per agire contro di noi, e noi attribuiamo agli altri qualcosa che in buona parte è stata provocata da noi stessi. E non chiediamo di meglio se c'è qualcun altro che funga da collettore e da parafulmine di tutte le nostre ansie. Quindi... E anche come gancio a cui appendere le nostre paure, le nostre ansie. Ma infatti nostre... la signora, se vogliamo fare un'analisi della sua case history, ha detto che questa era una signora che lei le stava antipatica. Sì, quindi esatto. La parese probabilmente le sarebbe venuta comunque, ha subito trovato degli elementi di simmetria e di incastro col fatto c'era la signora antipatica. Ma questo in fondo allevia anche... Alleva anche la disperazione di un momento brutto, sapere colpa di qualcun altro. Esattamente, in questi casi è anche l'antipatia che rimbalza, una sorta di effetto di rimbalzo, e si ritorce contro chi la prova. E poi molto spesso, appunto, nei momenti più oscuri, in cui ci capitano cose che non riusciamo a spiegare, in fondo la superstizione ci fornisce un repertorio di simboli a disposizione per spiegare tutto. E quindi anche uno dei tanti farmaci a cui possiamo attingere nei momenti in cui ci sentiamo opprimere dalla nostra condizione umana. Grazie, professor Marino Niola. 800 24 00 24. Oggi è una bella giornata e noi parliamo di sfiga. Mi scrive Barbara: ci sono dei catalizzatori di onde nere, sono persone che non fanno che parlare di fatti mortiferi, si lamentano, si disperano, ti si aggrappano come vischio e se posso mi sposto. Invece Manuel dice che ha un gatto nero in casa, si chiama Nutella, è contento perché è dolcissimo e fa tanto ridere la sua bambina, fa meno ridere il vicino di casa quando il gatto esce. Già abbiamo avuto episodi terrificanti di famiglie rimaste bloccate nell'ascensore perché osarono passare con il gatto nero che li incrociava loro la strada. Beh, stiamo scherzando naturalmente, ci stiamo giocando un po' sopra, ma però sa, sono quelle cose che è bene scherzarci, ma in fondo chissà, potrebbe anche esserci, sono dei fondi di verità. In fondo nessuno di noi si riesce a liberare profondamente da questo senso profondo di timore nei confronti di alcune situazioni, alcuni gesti, alcune persone, alcune fattispecie che potrebbero negativamente incidere nella nostra vita, la nostra serenità, la nostra giornata. E poi mettiamo insieme gli episodi, mettiamo insieme le circostanze, mettiamo insieme le coincidenze. E come ci ha detto poco fa l'antropologo Marino Niola, noi non cerchiamo altro che un sistema di parafulmini per alleviare la nostra ansia. L'ansia è una delle condizioni necessarie del vivere. Bruna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono molto felice che lei mi abbia contattato e io l'ascolto sempre, è veramente grande. Che le è successo di sfigato? Guardi, io ogni volta, adesso lei non rida. No, io non rido mai, la prendo molto seriamente. Ascolti, ogni volta che vedo un ragno mi porto una iella terribile, ma se lo vedo di mattina. Ma la sua casa è infestata da ragni, dove li vede normalmente? No, cioè, a parte io abito qua a Milano e quando mi deve succedere qualcosa il ragno lo trova addirittura in casa. A parte, vabbè, quando vado in montagna i ragni lì ci sono e non ci sono problemi. Ma scusi, a me da piccolo diceva mio padre, ragno porta guadagno. Quando trovavo un ragno era una gran fortuna. No, di mattina porta iella, di pomeriggio no. Così dico, ma c'è un vecchio proverbio. Da quando? Dalle 14 in poi porta bene? Non lo so. Comunque a me è successo che ogni volta che ho visto un ragno mi è successo sempre qualche cosa. Faccio degli esempi, se no non abbiamo elementi. L'esempio che faccio, ho visto un ragno la mattina, poi ho trovato un avviso nella casella della posta, la mia vicina mi ha fatto una causa che contestava che avevo 10 cani in giardino, 100 gatti, centinaia di uccelli. E ma è vero? Di pattumiera. No, io non ho questa roba. Non ha nulla di tutto questo? Nulla di tutto questo. E come fai, che c'aveva le visioni, come fai a vedere centinaia di uccelli nella sua casa se non ci sono? No, dentro nel giardinetto, perché è un piccolo giardinetto. Pieno di cani, gatti, uccelli? No, io ho solo due gatti e basta, non ho nient'altro. Cani non ne ho mai avuti, di conseguenza. Ho una causa che dura da quasi 5 anni. Nonostante ci sono le prove anche dell'amministratore che questa roba non ce l'ho. È colpa del ragnetto? Non è colpa del ragno, però sembrava che il ragno mi avesse. Poi ho rivisto un altro ragno e questa mia vicina mi ha fatto un'altra causa, questa volta penale, che io vado sotto le finestre a spruzzargli la bomboletta. La bomboletta di cosa? No, aspetti. Gli spruzzo la bomboletta spray che lei non può più aprire le finestre e di conseguenza. E cos'è, un collante spray che sigilla gli infissi? Sì, è una roba del genere. È una cosa penale con questa vicina che mi perseguita. Poi, quando trovo un ragno, immancabilmente incontro la vicina che cerca di farmi qualche cosa. Cioè, nel senso che ultimamente mi ha aperto, spalancato la porta della macchina mentre arrivavo in bicicletta. Guarda, se fosse lei, stare tranquilla, signora, guardi. Sono molto attenta, però tutte le volte che vedo un ragno di mattina io ho sempre qualche. Adesso potrei elencargliene tantissimi. Guardi, le do una profezia di pace e serenità. Un giorno sentirà suonare il campanello, verranno dei signori vestiti di bianco, molto gentili. Le faranno indossare una bellissima camicia, meravigliosa, e da quel momento si sentirà meglio. Eugenio, buongiorno. Buongiorno. Qualche superstizioso potrebbe pensare che ho basato il mio patrimonio su quanto racconterò, ma invece il mio matrimonio è basato su qualcosa di ben più solido. Fatto sta che però andavo a trovare per la prima volta a casa dei suoi genitori mia moglie. Per chiederla in sposa? No, era ancora molto presto. Non stavate insieme ancora? Sì, stavamo insieme. Certamente. Clandestinamente o lo sapevano i genitori? No, lo sapevano, tutto regolare, ma andavo a conoscerli per la prima volta. E pertanto con la mia lambretta correvo lungo la rampa che dall'Aurelia porta al paese di mia moglie, che è Follonica, e improvvisamente mi trovo che corre contromano verso di me un ronzino, un'immagine proprio da che neanche Omero forse poteva immaginare. Un cavallo impazzito? Impazzito, scappato da qualche podere, tant'è vero che almeno un film di Bergman. Ma forse, chi lo sa. Fatto sta che c'era anche un buttero in motorino, un contadino che dicendo delle cose irripetibili lo rincorreva perché gli era scappato di mano. Ebbene, questo cavallo... Ma lei aveva visto recentemente nel film Roma di Fellini, mi ricorda Fabrizio Intonti, c'è questa scena del ronzino impazzito che corre contro mano. È così. È veramente così, ma è la verità questa, non è una fiction. Fatto sta che mi sono accostato al bordo della strada con la mia lambretta e il cavallo a 20 metri da me improvvisamente, forse spaventato ancora di più, ha avuto un moto, ha alzato il freno anteriore, ha scalciato lanciando ai miei piedi un ferro di cavallo che si è fermato a 2 metri avanti a me. Lo ha raccolto? Io l'ho raccolto subito. Porta bene il ferro di cavallo? Certamente, ho letto subito questa immagine in maniera anche un po' gustosa e ridicola, e però ho preso il ferro di cavallo quando me lo sono messo in tasca e ho guardato la scenetta. Il cavallo mi aveva ormai superato da un pezzo, sempre col tizio motorino che gli correva dietro dicendo delle cose irripetibili, e l'ho portato a mia moglie e lo conserviamo ancora. E questo racconto... Però vi ha portato bene questo ferro di cavallo? Ma sì, non ci credo affatto, comunque l'ho tenuto ed è una cosa simpatica che raccontiamo. Però esattamente il contrario quello che stiamo dicendo. Il cavallo in fondo le ha regalato uno strumento portafortuna. Il ferro di cavallo è notorio che porti fortuna. Quindi le ha fatto un regalo il giorno che lei andava a chiedere sua moglie sposa. Quindi è una bellissima profezia questa. Ma infatti, insomma, poi dopo sa... le cose vanno come vanno, cioè, cosa, sono andate bene, vabbè, meglio così, sono molto contento, bene, sì, sono sì, contento. Sì. Non sempre va bene se accadono certe cose. Neo, diverse credenze sono legate alla posizione dei nei sul corpo umano. Si ritiene che uno sulla fronte sia presagio di ricchezza, vicino al sopracciglio prometta un matrimonio felice, mentre sul sopracciglio ne presagisca ben 5. Sulla punta del naso, invece, si crede che indichi concupiscenza e generosità. Oddio, ieri guardavo Porta a Porta, non so poi a questo punto qual è, però un'amica, qual è il vaticinio, un'amica bellissima, dalle callipigiche forme, che ha un bellissimo neo sul labbro, però non è elencato in questo tipo di enumerazione. Esistono altre forme di segnatura della figura umana a cui sono attribuibili anche nefasti influssi. Peli sono gli ingredienti fondamentali nella produzione di filtri d'amore o di incantesimi. Uno di questi vuole che 3 peli pubici e 3 staccati dall'ascella sinistra siano scaldati e poi messi in un pezzo di pane da far mangiare alla persona che si vuole fare innamorare. È un sistema astruso per legare una persona a se stessi, ben più difficile in epoche in cui la depilazione totale è uno degli orpelli più seducenti, signore e signorine, anche signore attempate, che probabilmente ridà il senso di trasgressione che si è persa nella naturalità della loro esplosione pilifera. Vittorio. Senti, io chiamo da Torino. È una bella città da questo punto di vista. Una città della magia. Uh-huh. Senti, io ho 44 anni, ti chiamo per sta sfiga qui che mi perseguita. Se posso fare qualcosa, volentieri. Vediamo se me la risolvi tu. Ho 44 anni, perciò ho passato circa 517 del mese, no? Uh-huh. Più o meno. Sì. E non mi è mai successa una sfiga. Sì. Temo tantissimo per il prossimo. Si accumulano... Guarda, io sono la persona adatta per rispondere, essendo nato proprio un giorno 17. Il 17 è il giorno del mio compleanno e ne ho avuti ben 55 faustamente celebrati. Quindi probabilmente che il 17 porti sfiga è soltanto un preconcetto. A noi porta bene, evidentemente. Va bene, ti saluto. Va bene, se sei ti accontenti di questa risposta. Sergio. Sì, buongiorno. La tua vita è collegata ai numeri. Ai numeri. Al numero 6 precisamente. Beh, il 666 lo sai che è una cifra sinistra, è la cifra dell'anticristo, del demonio, si è tanto favoleggiato e creato leggende anche contemporanee su questo 666, l'abbiamo detto giorni fa, nel noto marchio di una nota azienda hanno visto questo 666 e nessuno comprerà più i suoi prodotti. Beh, guarda, io sono nato il giorno 17 di venerdì. Va bene, questo... E tutto quello che mi capita... È il giorno 6, 16, 19, in tutte le sue forme. Ma faccia degli esempi. Allora, il giorno 16 di luglio mi è nata mia figlia. Il giorno 19 di luglio mi è nata l'altra mia figlia. Però il 19 col 6 cosa c'entra? Niente. Se lo metti sotto sopra. Ah già, è vero. Beh, sì, sì, certo, uno trova sempre. Il giorno 6 di maggio... di luglio è morta mia figlia. Il giorno 16 di agosto è morto mio padre. alle 10.46 gli cade la linea. Mi sta dicendo Alessandro Chiappini che cadono tutte le telefonate. Non voglio attribuire questo fenomeno puramente tecnico all'argomento che stiamo toccando, se no altrimenti sarebbe un argomento innominabile. Invece ci piace capire e vedere quanto sia radicato, anche inconsapevolmente, in gran parte del pubblico, il senso che esistano sinistre, imperscrutabili e sconosciute corrispondenze fra coincidenze numeriche, persone che ci guardano in una certa maniera, episodi legati ad antichi racconti familiari, a superstizioni che sembravano scomparse, ma sono ancora profondamente radicate nella nostra modernissima esistenza. Pelle. Se morbida, rivela una personalità gioiosa, affabile, ma anche particolarmente timida. Se ruvida e dura, una personalità forte e coraggiosa. Si dice che la pelle molto chiara e grassa sia propria degli individui presuntuosi, menzogneri e tendenzialmente stupidi. Buongiorno Ines. Buongiorno a lei. Io ho un bellissimo gatto nero di 22 anni che si chiama Penelope e vive con noi da quando è nato. Di venerdì 17 ho vinto 500 euro con un gratta e vinci. E in questo momento mi sto guardando in uno specchio che tempo fa è caduto ed è tutto rotto, eppure non mi è mai andato storto niente. Quindi lei dice che è semplicemente una nostra attribuzione negativa a certe simbologie? Decisamente sì. Quindi lei vuole contraddire tutto quello che con grande dolore e fatica stanno dicendo i suoi colleghi ascoltatori? Ebbene sì, perché non penso di essere una pecora nera, penso di essere una persona comune come tante altre e non mi è mai successo niente di particolare. Quindi è un atteggiamento nostro, personale, individuale, nei confronti sì. anche dei simboli eterni della sfiga, se ci ridiamo sopra in realtà li rendiamo innocui. Grazie. Infatti, Ines. Grazie a lei. Luigi. Sì, salve. Io ho un discorso che è contrario a quello che ha parlato questa signora. Io avevo, diciamo, mi sono sposato a 23 anni, un giorno dovevo andare a fare una gita con mia moglie. Avevo una moto e quando sono sceso sulla mia moto c'era appollaiato un gatto nero. 23 anni, 23 pare che sia un numero che porti bene. Cioè, 50 anni fa, cioè io ne ho 63, perciò dopo, e questo poi ha servito a condizionare tutta la mia vita. Allora, non aspetti, no, è importante. Questo episodio a 23 anni del gatto nero appollaiato sul suo motorino. Sulla mia moto. Che moto era? Non ho capito. Che moto era? Era una BMW. Una BMW, sì. Allora, cosa è successo? Quindi era già nera la moto, immagino, perché normalmente... No, era un colore, non era, era un colore blu, perciò non era la moto nera. Il gatto era sopra appoggiato, aveva un sellino fatto di pelo, perciò di conseguenza lui ha trovato la posizione giusta da rimanerci. E quindi ha anche lasciato dei segni olfattivi e tangibili? No, niente. L'ha montato semplicemente pensando che era una gatta, la sedile di pelo? No, perciò quando io l'ho fatto scendere e poi siamo partiti con la moto, io e mia moglie, eravamo fidanzati allora. Dopo circa un'ora e mezza ho avuto un incidente che ovviamente ci lasciamo la pelle tutte e due. Ahia. Perciò diciamo che il gatto nero sulla mia moto, ma quel giorno è stata una cosa strana, continuavo a evitare incidenti fino a che all'ultimo non ci sono riuscito. Siamo andati all'ospedale, la moto si è accorciata dal colpo che avevo preso. E da allora, ogni volta che vedo un gatto nero, io mi fermo, se sono in macchina o in moto o che cosa, lascio passare qualche macchina in modo che si prenda, diciamo, la sfortuna. L'ultima volta non l'ho fatto e mi sono cuccato una multa. Allora, però ha avuto soltanto questo episodio, non è che ha avuto altri episodi nella sua vita. Mi sembra un episodio in 50 anni, potrebbe essere anche associabile al caso. Non voglio adesso... Diciamo alla casualità, per ogni volta che adesso vedo un gatto nero... ho provato a avere gatti neri come gatti in casa, però averli in casa è diverso, perché sei a contatto continuamente di questo, perciò non è il gatto nero, è quello che incontro, la casualità, quello che ti attraversa la strada. Sì, perché il gatto nero domestico semmai porta sfiga agli altri quando esce per strada e qualcun altro lo incrocia. Sì, appunto, per quello. Invece per la numerazione, anch'io sono legato a una numerazione, perché mio padre è nato il 289, perciò il 9 girato mi dà 6. Io sono nato l'8-9 del 36 e mio figlio è nato nel 63. Mia madre è nata l'8 dell'8. Di conseguenza sono legato molto al 13 mia madre, perciò sono legato molto anche alla numerazione, perché è difficile che in una famiglia in 5 numeri c'è dentro tutta la casualità della famiglia. Quindi si è fatto anche tutti i conti delle corrispondenze, delle cabale, delle date di nascita? Sì, infatti io gioco sempre i miei numeri e molte volte il mio numero 289, che sarebbe mio padre, mia madre e io, ho provato a vincere una terna, perciò 5.000 euro. Beh, quindi non è che poi questo gatto alla fine abbia fatto, ha avuto un incidente di moto che probabilmente quel giorno, attratto dalla velocità e stimolato dal contatto peloso del sedile, naturalmente è anche logico, eravate fidanzati, che possa accadere qualcosa. Grazie Luigi. Giuseppe. Pronto? Giuseppe, racconti, lei dice che è una sfiga inimmaginabile, ce la faccia capire. La data in cui sono nato, 13 aprile del 63. Comunque guardi, il giorno 13 nascono un numero pari di esseri umani dipende. Quanto qualsiasi giorno, a qualcuno sì, tocca. Poi dipende, gli angli hanno il 13 sfortunato, noi abbiamo il 17, ognuno ha la sua sfiga. Vabbè, lei è nato il 13, sono nato... No, dico, lei è nato il 13, sono nato il 17, vede che... Appunto, abbiamo tutti noi in un'altra sfida. Beh, lei che le è successo? A me? Di essere nato. Beh... Questa è la mia sfiga. Vabbè, se lo dice così sembra una sfiga per gli altri, scusi, non per lei. No. E perché lei è pentito di essere nato? Sì. Ma questo pentimento da quanti anni lo sta maturando? Da 46. Cioè, da quando è nato? Lo so, è un caso molto, molto emblematico di persona che non si capisce perché resti in vita, non lo so, non so che dirle. Se... appunto, è per quello. Ma adesso... E io non capisco la sfiga, non esiste la sfiga. Non esiste. Ognuno ha quello che ha, non esiste. Secondo me non esiste. Quelle sono particelle. Il suo pentimento di essere nato è legato al giorno 13? No, non c'entra nulla. No. Legato a uno stato depressivo temporaneo, quindi le faccio i migliori auguri. No, non è uno stato depressivo. Vabbè, così, è una constatazione del fatto che... È una cosa, come dice lei, io sono troppo cattivo. Vabbè, non mi sembra molto cattivo, mi sembra semplicemente che voglia oggi provocarci con la fatale esistenza della sua persona, ma visto che la sigla ci viene piacevolmente a prendere, ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti e vi faccio i più felici auguri per la giornata di oggi. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.